Franco, ma minchia spacco Massimino, Giovannino, vieni qua. Porto mio cugino che porta un altro cugino, risolviamo a modo nostro. Mo solo al semaforo, ma cazzo c'è la fila, poi sta verde non arriva, se mi incazzo un'altra pa. In fondo non mi piace, mi cancello i tatuaggi, ci mancava anche la radio con quei babbi dello ZA. Lo ZA di 105, il programma più ascoltato in Italia.